Yo, yo, yo. Deco MC. Yeah. Mamma mia. Deco MC. D, E, K, O. La D, la E, la K, et la O. La K, et la O. Mega scene, troppi drama, infittirne la trama. Mi vuoi dare scacco matto, ma stai giocando a dama. La musica mi chiama dalla sua sporca prigione. Io scavo in mille tunnel per la sua liberazione. Fuori dal cerchio, non sulla stessa barca. Talmente fuori che spacco il motore di ricerca. Chiamo un tecnico se spacci il tuo computer per artista. Se ascolti Deco MC, allora chiamo un esorcista. L'hip hop è morto, arrivo io a resuscitarlo. Non c'è lo spirito, arriva Deco ad invocarlo. Vive come Carlo e lotta insieme a noi. Gli ideali e questa musica non morirà mai. Panico da quando ho eliminato il tasso alcolico. È venuto fuori l'unico assassino microfonico. Temo per me stesso ma mi espongo lo stesso. Pronto per eludere la selezione all'ingresso. La D, la E, la K e la O. Dalle zone più nascoste del mio cervello. L'altra faccia dell'hip hop senza debolezza alcuna. Paragonate Deco al lato oscuro della luna. La D, la E, la K e la O. Dalle zone più nascoste del tuo cervello. L'altra faccia dell'hip hop senza debolezza alcuna. Paragonate Deco al lato oscuro della luna. Se mi vuoi fottere il cervello, fra, usa le precauzioni. Perché ho la mente malata, ho i teppisti tra i neuroni. Sempre se ci arrivi, questo è tutto da vedere. Vengo dal futuro a dirti che puoi tornare a sedere. Volete rap crudo? Sono io che grondo sangue. Dopo un impatto con la vita, le sue male lingue. Volete l'MC più alla moda, più fashion, petto scoperto. Spiacenti coglioni, avete sbagliato concerto. Resto coi cani più infetti, fatti di fotta. Non mi servono truzzetti che descrivono la botta. Sempre nei casini o in qualche letto che scotta. Non ci fai un cazzo con Twitter quando inizierà la lotta. Massimo rispetto a chi dona il suo tempo e scrive. Se il rap è terrorismo, noi siamo cellule attive. Per quel che mi riguarda, nulla è ancora deciso. E vedrete la mia faccia finché non mi avrete ucciso. La D, la E, la K e la O. Dalle zone più nascoste del mio cervello. L'altra faccia dell'hip hop senza debolezza alcuna. Paragonate Deco al lato oscuro della luna.